Intervista a Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, direttore di Pagine Esteri. Michele, la prima cosa che volevo chiederti è: nel dicembre 22, Netanyahu su Twitter, prima delle elezioni israeliane, ha postato: "Il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile di tutte le parti della terra di Israele. Il governo promuoverà e svilupperà insediamenti in tutte le parti della terra di Israele: Galilea, Negev, Golan, Giudea e Samaria. Possiamo dire che il governo Netanyahu è intenzionato a portare alle estreme conseguenze l'oppressione contro i palestinesi, arrivando anche all'annessione dei territori?" Ma io credo che la risposta sia molto più ampia di questo, perché l'obiettivo, che poi non è di Netanyahu, quello di cui parlavi prima è semplicemente ciò che è avvenuto per 75 anni e che poi è stato sancito, scritto nero su bianco nel luglio del 2018, quando la Knesset ha approvato una legge fondamentale. In Israele non c'è una Costituzione, ci sono una serie di leggi fondamentali in cui si afferma che Israele è lo Stato della nazione ebraica. In sostanza si afferma una sorta di proprietà del popolo ebraico sullo Stato, che quindi appartiene agli ebrei e degli ebrei, ma non di tutti i suoi cittadini, quindi anche dei non ebrei. Ora, da parte dei difensori di questo sistema, cioè di questo Israele ebraico e democratico, come spesso si sente dire, si dice: vabbè, ma in realtà poi ai non ebrei godono di diritti, vanno a votare, eleggono i loro rappresentanti, sono protetti dalla legge civile dello Stato, eccetera. Gli altri dicono che non è assolutamente così, perché i cittadini non ebrei, che poi in realtà sono quasi tutti degli arabo-israeliani, dei cittadini arabi, ossia palestinesi di Israele, il 21% circa della popolazione, sottolineano ed elencano una serie di discriminazioni, spesso sottili, di fatto, che non sono scritte da nessuna parte, ma che vengono attuate e che quindi rendono questo sistema da 75 anni già chiaramente a favore della popolazione ebraica, dell'insediamento ebraico. Ora, all'interno di tutto questo è chiaro che nella visione della destra religiosa che Netanyahu rappresenta, soprattutto con quest'ultimo governo, è chiaro che non ci può essere una soluzione, un compromesso territoriale con i palestinesi. Ecco perché la soluzione dei due stati, o meglio, anche per questo, la soluzione dei due stati è fallita, non può più essere attuata, nel senso che dovesse nascere uno Stato palestinese in qualche piccola porzione della Cisgiordania sarebbe uno staterello, senza sovranità, senza controllo delle sue frontiere, del suo spazio aereo. Quindi, come dicevo, è chiaro che all'interno di questa idea portata alle estreme conseguenze da Netanyahu e dalla destra religiosa, è chiaro che non c'è spazio per un compromesso territoriale, per una soluzione negoziata sul territorio, e che tutto dovrà rimanere sotto la sovranità di Israele, così come è dal 1967, in sostanza, con i palestinesi all'interno delle loro città, dei loro distretti, in cui c'è soprattutto popolazione, ma poca terra, poco spazio, perché tutto il resto è controllato da Israele. Quindi, detto tutto questo, è evidente che l'intento è quello di controllare tutto e che l'oppressione dei palestinesi è inevitabile. D'altra parte, poi, questo è anche un sistema che predispone ad una discriminazione ancora più ampia, e quindi diverse organizzazioni per i diritti umani, da Amnesty a Human Rights Watch, ma anche un'organizzazione israeliana, B'Tselem, hanno anche denunciato Israele per un crimine di apartheid nei confronti dei palestinesi, accusa che Israele respinge, che anche gli amici degli stati, amici di Israele, i governanti amici di Israele respingono, addirittura prevedendo delle sanzioni per chi la portasse avanti questa accusa. Ma questo è ciò che dicono non solo i palestinesi, ma importanti centri per i diritti umani. Quindi già in parte mi hai risposto, ma possiamo dire che tra i partiti dei coloni, il Likud di Netanyahu, i centristi, i laburisti d'opposizione, c'è una sostanziale continuità nel concepire Israele come Stato unico, ebraico e sionista, senza alcun tipo Ma spazio. io credo che ci sia una continuità di tutti i partiti israeliani, ad eccezione di quelli arabi. Non è, la mia non è una, come dire, espressione di un mio pensiero politico, è semplicemente una constatazione dei fatti, una constatazione storica di quello che è avvenuto. D'altra parte, quando poi si è votato in Parlamento, alla Knesset nel 2018, questa legge di cui parlavamo prima, questa legge fondamentale, non è che i partiti del centro-sinistra, incluso anche lo stesso Meretz, che adesso non è neanche più in Parlamento, che sarebbe la sinistra sionista, non è che hanno mai messo in discussione il carattere ebraico di Israele, che rimane il perno, la colonna portante di tutto lo Stato di Israele come concezione. La natura stessa di Israele è quella, è nato per quello, per essere lo Stato degli ebrei, non di tutti i suoi cittadini. Quindi la differenza che c'è oggi rispetto a prima è che questa diciamo, condizione, quello di cui stiamo parlando, è tutti i giorni visibile nelle strade, in tutto quello che accade, ma che in realtà è andato avanti in varie forme, magari meno brutali, ma per 75 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Sì, volevo chiederti, i governi israeliani in questo periodo stanno reprimendo pesantemente i palestinesi e spesso presentano questa politica come, lo metto tra virgolette, lotta al terrorismo. Con quello che è lo sviluppo dei legami politici, economici e militari dello Stato italiano, pensi che ci sia una corresponsabilità politica, morale in questo e pensi che ci sia continuità tra i governi precedenti o con quello Meloni abbiamo avuto un salto con gli ultimi accordi? Ma diciamo, io non vorrei esprimermi tanto sulle politiche dei governi israeliani e sui rapporti con Israele, anche perché credo che di questa cosa si sia già parlato abbastanza e sia tutto assolutamente così evidente, perché non credo che le politiche portate avanti, ad esempio, anni fa dal governo Prodi nei confronti di Israele, fossero state sostanzialmente diverse da quelle che porta avanti adesso Meloni. È chiaro che da un punto di vista delle espressioni, delle manifestazioni di amicizia e di alleanza, adesso voglio dire con ministri come Salvini, con un premier come Meloni e via dicendo, è chiaro che sono molto più esplicite e molto più chiare, ma da un punto di vista degli accordi militari, di sicurezza, eccetera, questo oramai va avanti da almeno 25 anni, tutto si è molto accelerato negli ultimi anni, però ecco, diciamo, sono cose che si sanno. Io quello che invece vorrei sottolineare è qualcosa che si aggancia a questo, ma che è molto importante, cioè che comunque c'è un atteggiamento da parte dei governi europei, governi occidentali, degli Stati Uniti, che mirano sicuramente a ripetere qualcosa che oramai è diventato del tutto inutile, come la soluzione dei due stati, la soluzione dei due stati che sentiamo sempre in bocca a tutti i leader europei, italiani e via dicendo. Mentre invece anche loro sanno che questo non è più realizzabile sul terreno per i motivi che sappiamo, la colonizzazione, l'occupazione, le politiche degli ultimi governi israeliani in particolare. E quindi è questo il problema, non è tanto il singolo Stato, perché poi più o meno tutti fanno lo stesso. Ci sono i paesi dell'Est Europa che hanno un'alleanza con Israele molto più esplicita e molto più stretta e che negano quasi apertamente i diritti dei palestinesi e lo fanno senza molti problemi, perché ci sono delle alleanze, degli accordi militari, di intelligence, economici che sono molto importanti, ma più di tutto c'è anche il fatto che comunque si continua a vedere in Israele il baluardo della democrazia in Medio Oriente e un alleato strategico di importanza fondamentale per l'Occidente, per gli Stati Uniti, per l'Europa. E di fronte a queste priorità, chiamiamole così, sono terribili priorità, pagano i palestinesi perché vengono calmati con un po' di finanziamenti che vengono stanziati dai governi europei, qualche regalo che arriva ogni tanto all'autorità nazionale palestinese, ma nessuno ha il coraggio di dire che ai palestinesi viene negata la possibilità di essere totalmente liberi, indipendenti, di autodeterminarsi nella loro terra. E si continua a ripetere, come dicevo, delle cose che oramai non hanno più senso. E tutto questo, qui lo sottolineo, è chiaro che genera tra i palestinesi una completa disillusione rispetto ad un ruolo dell'Europa, del mondo intero, della cosiddetta comunità internazionale, perché tutti i giorni hanno di fronte un atteggiamento europeo-occidentale assolutamente ambiguo. Si riconosce il diritto degli ucraini a resistere all'occupazione, si riconosce il diritto agli ucraini a riconquistare i terreni che ha preso la Russia, ma non si riconosce da decenni il diritto dei palestinesi di vivere liberi almeno in una porzione della loro terra. Sì, una cosa, abbiamo sentito molto nei mesi precedenti delle manifestazioni che hanno attraversato Israele contro la presunta riforma della giustizia di Netanyahu. Un po' se si può spiegare in cosa consiste, soprattutto se è vero, come abbiamo visto, che scrivono i soldati che rifiutano di fare la leva nei territori, che alla fin fine questa misura sarà soprattutto rivolta contro i palestinesi, questa controriforma della giustizia. Ma la cosa è molto più ampia e molto più articolata. È chiaro che i palestinesi, non tanto quelli dei territori che sono soggetti ad un governo militare, ad una gestione militare della loro vita, ma ai palestinesi invece, ai cittadini di Israele, dobbiamo vedere che cosa significherà questa riforma che potrebbe, dovrebbe essere ugualmente approvata, nonostante sia stata sospesa qualche settimana fa da Netanyahu di fronte alle manifestazioni oceaniche ed alcuni errori strategici che lui stesso ha commesso e che hanno fatto il gioco dei suoi oppositori. Detto questo, è una riforma che prevede, e questo è molto importante, qualcosa che è particolarmente significativo per gli israeliani all'interno di quel discorso che facevamo di Israele ebraico e democratico, cioè stanno protestando contro questa riforma giudiziaria tantissimi israeliani, anche una parte di quelli di destra, diciamo la destra più aperta, più moderata, perché si tende a colpire il ruolo della Corte Suprema, che in questo paese è garante in pratica della separazione dei poteri. Si vuole incidere sulla formazione, composizione della Corte Suprema in modo che il governo possa decidere i suoi membri e naturalmente farne nominare alcuni addomesticati, anche perché la destra estrema religiosa, ma la destra in generale in Israele, ha sempre ritenuto la Corte Suprema una specie di organo istituzionale nelle mani del centro-sinistra. E quindi questo elemento va scardinato, è questo che dicono va cambiato perché ci sarebbe uno squilibrio a favore del potere giudiziario. Ovviamente non è vero. Però sta di fatto che questa riforma prevede questo e prevede anche, se ne parla poco, il fatto che le corti rabbiniche, quindi le corti religiose, dovranno avere molti più poteri. Già ne hanno non pochi in un paese dove diversi aspetti della vita civile sono nelle mani delle corti religiose, alle quali, vi dicevo, si vogliono assegnare molti più poteri e questo può avere come dire, dei riflessi importanti nella vita sociale, nella gestione delle famiglie, nei divorzi, nei matrimoni, le donne si troveranno, soprattutto quelle più religiose, si troveranno in difficoltà superiori al passato, già lo sono adesso, rispetto a una serie di diritti che non hanno e che si vedranno negati. Naturalmente tutto a vantaggio degli uomini, ma ho fatto solo un esempio per dire che è una riforma che prevede anche cambiamenti importanti, trasformazioni nel sistema educativo che dovrà essere più religioso, più ispirato dalla religione, alla Bibbia, insomma, un po' a tutto questo rispetto ad adesso, perché secondo la destra al potere il sistema è troppo laico. Ho accennato solo a qualche punto, ma in realtà ce ne sono tanti altri, ma bisogna anche aggiungere un altro aspetto. Perché i palestinesi di Israele non vanno alle manifestazioni. Abbiamo visto in piazza centinaia di migliaia di israeliani a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa, in tante altre città. Delle volte ci sono manifestazioni contemporaneamente in 180 località. Però perché i palestinesi di Israele non protestano insieme agli altri? Eppure, lo dicevate voi prima, potrebbero essere, probabilmente saranno tra i più colpiti da questa riforma giudiziaria. Perché alcune porzioni di popolazione israeliana marginali, come ad esempio gli etiopi, ebrei etiopi, non vanno a queste manifestazioni? Perché evidentemente, e potremmo citare anche altri gruppi sociali e settori della popolazione, non ci vanno perché la Corte Suprema, che è tanto come dire, difesa da questi israeliani scesi in piazza, non è la Corte Suprema, la stessa Corte Suprema che poi deve giudicare rispetto alle questioni che riguardano i rapporti storici, oltre che politici e sociali, tra ebrei e non ebrei, ebrei ed arabi in Israele. La Corte Suprema, che è il baluardo della democrazia per questi israeliani che manifestano, per un arabo israeliano, per un arabo in Israele, invece è un insieme di giudici che non sempre hanno garantito che le terre arabe non venissero confiscate dallo Stato, che non ha preso le difese della minoranza araba in tante circostanze, e questo è uno dei motivi per cui non ci vanno alle manifestazioni. Gli etiopi anni fa hanno fatto delle manifestazioni importanti, bloccando anche loro Tel Aviv, perché erano stati pesantemente attaccati, aggrediti in varie circostanze dalla polizia. Si era parlato molto della brutalità della polizia israeliana nei confronti di altri ebrei. Ebbene, la Corte Suprema non è che in quel caso fosse intervenuta per difendere questa piccola componente comunità della società israeliana. Quindi non voglio dilungarmi, però manifestazioni che sicuramente hanno un'importanza, ma lo hanno soprattutto per quella maggioranza che è di classe media, di persone istruite. Qui si dice Ashkenazite, che sarebbero gli ebrei di origine europea, paragonati insomma ai Mizrahim, gli ebrei di origine medio orientale, orientale, che anche questi appunto ci vanno poco, anzi per la verità molti di loro sono proprio sostenitori della riforma. E qui chiudo: accanto ai tanti ebrei che manifestano contro, non dimentichiamo che ce ne sono tanti altri che invece sono a favore di questa riforma, che chiamano una rivoluzione e che ritengono assolutamente necessaria, soprattutto per dare un'impronta più religiosa allo Stato. Quindi più religione, meno democrazia, più Torah, Bibbia e meno separazione dei poteri. Sì, in questo contesto gli organismi e le organizzazioni antisioniste ebraiche come Breaking the Silence, i Refuser, One Democratic State, l'ICAT, insomma, che ci può essere, hanno qualche peso o sono molto minoritarie? Allora, stavo facendo questa domanda. Allora, guarda, in queste manifestazioni, all'inizio, soprattutto le prime due, in particolare la prima, erano gestite soprattutto, è partito un po' tutto da parte di Standing Together, che è un'organizzazione arabo-ebraica che ha cercato sin dall'inizio, e non è neanche una di quelle più radicali, però sta di fatto e porta avanti un discorso di unità tra ebrei e arabi nella realizzazione di diritti per tutti. E Standing Together aveva organizzato le prime manifestazioni a Tel Aviv di migliaia di israeliani contro il governo, la riforma, contro il governo Netanyahu, che era appena nato, perché è nato alla fine di dicembre il governo in carica. E poi il controllo di tutto è stato preso da altre organizzazioni che hanno voluto rimarcare il fatto che innanzitutto non erano schierate con nessun partito, movimento, orientamento politico, quindi erano organizzatori apolitici, così si definivano, e che questa storia comunque doveva riguardare esclusivamente il discorso della riforma giudiziaria, dei pericoli per la democrazia in Israele e non prendere in esame o di includere anche la questione dell'occupazione dei territori o anche dei diritti dei palestinesi in Israele. Io stesso sono stato a 3 o 4 di queste enormi manifestazioni a Tel Aviv e diverse persone che mi sembravano anche particolarmente progressiste, almeno nel loro modo di parlare, mi dicevano: queste sono altre storie di cui noi adesso non dobbiamo occuparci. Di fronte a questo, varie piccole organizzazioni si sono date da fare e hanno partecipato a queste manifestazioni cercando di, con striscioni, poster, banchetti, urlando slogan, sventolando bandiere palestinesi, cosa che è vietata in Israele, di sottolineare anche questo altro problema, cioè quello dei diritti dei palestinesi e dell'occupazione. Però ovviamente stiamo parlando di numeri estremamente esigui, la maggior parte della gente non è che stesse a seguire questo, anzi spesso capitava che qualcuno dei manifestanti, passando accanto a questi gruppi diciamo più radicali che volevano mettere in campo anche la questione palestinese, diceva: ah, ma no, ma che volete, adesso non siamo qui per questo, noi siamo qui per la democrazia, come se ovviamente questa cosa non riguardasse in alcun modo anche il rapporto tra lo Stato di Israele e milioni di palestinesi che in Israele e soprattutto nei territori occupati vivono in quelle condizioni. Sì, volevo chiederti se nel campo palestinese, passando adesso, esiste in questo periodo veramente una frattura tra i giovani e le organizzazioni storiche come Hamas, al-Fatah, che peso possono avere strutture come i Leoni di Nablus, o che situazione c'è in questo senso? Se anche tra di loro c'è un dibattito su uno solo Stato o sono ancora i due Stati degli accordi di Oslo? Parto da quest'ultimo punto. Naturalmente siamo in una situazione, in un argomento, adesso in un tema che è un po' diverso da quello di cui parlavamo prima, anche se c'è qualche collegamento comunque. Sta di fatto comunque che, stando ai sondaggi, i sondaggi degli ultimi anni, tra i palestinesi dei territori occupati, di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, è cresciuta la percentuale di quelli che sarebbero favorevoli alla creazione di uno Stato unico per tutti, ovviamente uno Stato non ebraico, ma a questo punto neanche arabo nazionalista, ma uno Stato per tutti, con diritti per tutti e via, quindi lontano da ogni forma di nazionalismo. La percentuale è cresciuta in modo anche significativo, adesso onestamente non ricordo bene i numeri, ma eravamo intorno ad un 20% più o meno, qualcosa in più, qualcosa in meno. Potrebbe apparire un numero, una cifra un po' bassa, ma in realtà eravamo partiti da numeri quasi vicino allo zero appena 4-5 anni fa. E quindi la maggior parte della popolazione palestinese resta legata, diciamo, ad un'idea di indipendenza e separazione totale dall'altra parte, cioè dagli israeliani. Però io credo che questa situazione sia piuttosto in movimento, in evoluzione. È difficile fare previsioni, perché poi ci sono diverse visioni tra la gente. C'è chi ha una visione più moderata, che si avvicina a quella dell'autorità nazionale, che quindi guarda i due stati e quindi immagina ancora che si possa raggiungere, è davvero una percentuale molto piccola adesso, l'indipendenza e così via. Qualcuno li definisce, non a torto secondo me, degli illusi vedendo la situazione sul terreno, ma ci sono molti, appunto, una percentuale di persone molto più aperta, eccetera, aperta soprattutto a un punto di vista dell'educazione, dell'istruzione, che quindi guarda le cose in un modo un po' diverso, che ragiona sull'idea di questo stato unico. Però c'è anche una fetta incredibilmente alta di palestinesi che sono di orientamento islamista. Non significa che sono di Hamas, non significa che votano e voteranno per il movimento islamico islamista palestinese, anche se vi posso garantire che, da quello che mi sembra di capire, credo che Hamas ancora adesso abbia la maggioranza dei voti in possibili elezioni come nel 2006. Però comunque c'è un orientamento molto, diciamo, che è più legato alla religione e islamista in politica, che sono persone che probabilmente pensano ancora che si possa liberare tutta la Palestina e quindi rimandare a casa gli israeliani. Insomma, l'ho detto in maniera un po' superficiale, però solo per farvi capire. E dall'altro lato ci sono anche organizzazioni non religiose che invece sono comunque molto vicini anche a questo modo di pensare che è più di Hamas, diciamo, del movimento islamico Hamas. Però ripeto, è difficile dare un quadro della situazione preciso perché sono tantissimi gli orientamenti e sicuramente c'è stata una radicalizzazione, soprattutto dei più giovani, negli ultimi 2 o 3 anni e negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo anno. E certo, un riflesso è sicuramente la nascita e il rafforzamento di varie organizzazioni armate che operano soprattutto a Nablus, Jenin, ma anche in altre città, ma soprattutto in quelle due. Ma se il numero non è estremamente elevato degli armati, quello che invece è molto significativo è il sostegno che oltre il 70%, almeno nell'ultimo sondaggio che abbiamo potuto leggere un paio di settimane fa, oltre il 70% dei palestinesi sostengono fortemente la lotta armata, la ritengono oramai l'unica possibilità per potersi costruire un futuro diverso, perché nella situazione attuale pensano di non poter vedere nessun'altra soluzione, una soluzione politica. Sono contro qualsiasi azione dell'autorità nazionale che possa colpire queste organizzazioni militanti armate. E quindi c'è grande anche entusiasmo verso queste. Per quanto riguarda Hamas in particolare, lo dicevo prima, io credo che sia estremamente popolare, ma sotto traccia, perché Hamas in Cisgiordania non può muoversi perché c'è l'esercito israeliano, ma c'è anche l'autorità nazionale palestinese, forme molto organizzate di proteste, eccetera, verrebbero represse, ci sarebbero molti arresti, più di quelli che già ci sono, però io credo che Hamas abbia davvero grande popolarità, e anche le proteste che abbiamo visto a Gerusalemme, è inutile nasconderselo, sulla spianata delle moschee c'erano lì ad organizzare le proteste, le manifestazioni, lo sventolio delle bandiere, anche quelle di Hamas proprio, eccetera, dei militanti o comunque dei simpatizzanti del movimento islamico. Gioca a loro favore il fatto poi che l'autorità nazionale non abbia più una credibilità. Proprio perché le ha prese sonoramente per tutti questi anni, non ha raggiunto nessun risultato. La colpa sicuramente è di Israele, però la paga soprattutto Abu Mazen, anche con sue scelte assolutamente contestabili e incomprensibili, come quella di annullare le elezioni 2 anni fa. Però sicuramente c'è un orientamento islamista o comunque favorevole ai movimenti islamici abbastanza marcato in Cisgiordania, mentre per quanto riguarda Gaza, paradossalmente c'è qualche forma di protesta, di dissenso in più verso Hamas. Gaza è la roccaforte storica di Hamas. Perché? Perché Hamas lì governa, Hamas lì deve decidere del lavoro, delle tasse, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito anche di tanto malumore per nuove tasse che sono state approvate. La gente di Gaza vive in un'enorme prigione, una parte non insignificante di popolazione sicuramente farebbe a meno di Hamas, magari semplicemente perché pensa che senza Hamas Gaza forse godrebbe di una maggiore libertà. Io personalmente dubito che la condizione di Gaza possa cambiare con qualsiasi governo al potere lì nella striscia di Gaza. Però sta di fatto che sicuramente Hamas, che governa Gaza, lì ha qualche problema in più, paradossalmente, rispetto alla Cisgiordania, dove è visto in un altro modo, completamente diverso, e dove non governa. Sì, un'ultima cosa volevo chiedere. Davvero l'ultima, perché devo Sì, assolutamente. certo, e velocemente perché mi rendo conto che è grossissimo. La forza lavoro, i palestinesi continuano ad andare a lavorare da Gaza e dai territori in Israele oppure no, con tutto quello che è successo nel corso di questi anni. L'Istadrut continua a creare differenza tra lavoratori ebrei e lavoratori palestinesi. Un po' questa cosa qui sia ancora come una volta che era molto presente. No, no, continuano ad andare. Quelli di Gaza è un fatto più recente. Solo adesso con preciso, no, credo meno di 2 anni fa, o poco più di un anno fa, Israele ha riaperto dopo tantissimi anni i valichi per i lavoratori, per i manovali palestinesi di Gaza. E questo ha avuto anche un effetto politico, perché secondo alcuni avrebbe in qualche modo calmato, moderato anche Hamas nelle sue risposte che ci sono ai vari eventi, nei lanci di razzi e via dicendo, perché si sa che quando Gaza chiude, quando Gaza è più chiusa e i lavoratori non vanno, ci sono migliaia e migliaia di famiglie palestinesi che non hanno più un reddito. Questa storia del reddito, che è molto più significativa in termini numerici, quantitativi, in Cisgiordania, è molto importante anche dal punto di vista sociale, perché addirittura si è creata una situazione negli ultimi 2 o 3 anni dove il lavoratore manovale che va in Israele riesce a guadagnare sebbene debba pagare delle cifre mostruose per il permesso di lavoro, spesso a causa anche di forme di caporalato e di, come dire, insomma, di manifestazioni, definiamole quasi mafiose, da parte dei datori di lavoro. Però comunque riescono a guadagnare bene, o comunque un buon numero di loro a guadagnare bene, tornano a casa e mantengono le loro famiglie. Precipita invece il lavoro pubblico. L'autorità nazionale, che è il più grosso datore di lavoro per i palestinesi in Cisgiordania, non ha soldi, o se li ha li spreca, o non sono abbastanza, quindi paga degli stipendi molto bassi o relativamente bassi, che spesso non bastano a vivere. In questo periodo c'è una protesta da parte degli insegnanti, decine di migliaia di persone che non prendono lo stipendio, che vogliono un aumento di stipendio, perché qui la vita costa molto anche nei territori palestinesi. E quindi si sta creando questa situazione dove 20 anni fa trovare un'occupazione in un ministero, in un ufficio pubblico della Cisgiordania, era particolarmente conveniente, c'erano molti vantaggi, lo famoso stipendio fisso. Adesso invece questo mondo sta crollando economicamente. Mentre invece il lavoro manovale va molto bene, perché Israele, nonostante tutti i suoi proclami, anche di questo governo, ha bisogno della manodopera palestinese e quindi lascia entrare oltre 100.000, forse 120.000 lavoratori al giorno, quando è aperto, quando i varichi sono aperti e non vengono chiusi. E quindi succede che le famiglie che un tempo erano a basso reddito adesso vivono un po' meglio. Rispetto alle famiglie invece dei lavoratori del settore pubblico, che sono davvero alla rovina. Ti ringrazio molto per la tua disponibilità e per l'intervista.